La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, un saluto a Franco D'Assisi, tutti insieme qui per l'ora settimanale di cinema su Radio 24. Prima puntata del mese di giugno della Rosa Purpurea, e giugno nel cinema significa che i pezzi grossi cominciano un po' a latitare, i weekend magari non propongono sempre qualcosa di memorabile da andare a vedere, ma che anche fra le pieghe di una distribuzione che improvvisamente mette fuori 8, 9, 10, 11 film addirittura la settimana, alcuni con distribuzioni molto molto piccole, 10, 15, 20 sale in tutta Italia, qualcosa, qualche fiore nel deserto si riesce anche a trovare, in attesa di qualche blockbuster che da qui al mese di agosto invece faccia il pieno negli incassi. Questo per fotografare il periodo che ci accingiamo a vivere nel dopo Cannes. Anche questa settimana tutto sommato non sfugge a questa regola, come già la settimana scorsa, e lo vedremo anche nei riflessi di classifica dove non ci sono stati sconvolgimenti particolari, ma noi andiamo a riepilogare i contenuti di questa trasmissione nei nostri titoli di testa. Torna la bambinaia più severa e bitorzoluta del cinema. È Tata Matilda alle prese con tre fratellini di campagna e due cuginetti di città sotto le bombe naziste. Nel cast Emma Thompson e Ewan McGregor. C'era una volta un papa, anzi una papessa, leggenda o realtà? Il film di Sonke Wortmann recupera la storia della papessa Giovanna che nel IX secolo avrebbe varcato il soglio pontificio fingendosi maschio. Due fratelli che non si parlano da tempo. Un viaggio riparatore per cospargere le ceneri del padre e fare i conti con se stessi. È 18 anni dopo, ancora un road movie per l'Italia del cinema indipendente. Sono Jonathan Demme, Ennio Morricone, gli ospiti d'onore del Napoli Film Festival, giunto alla 12ª edizione. Eventi dedicati a Totò e Troisi. Ne parliamo col direttore Mario Violini. Ebbene, questi quindi i contenuti della trasmissione. Noi, prima di cominciare ad affrontare il primo film, vogliamo subito mettere così, diciamo, riscaldare i vostri polpastrelli, perché giocheremo questa settimana con un DVD game molto particolare. Lo abbiamo parzialmente annunciato 7 giorni fa, ovvero compleanno di Clint Eastwood, 80 anni del grande Clint. Vi avevamo promesso che qui alla Rosa Purpurea avremmo giocato con i suoi grandissimi film. Allora, grazie alla Warner, avremo la possibilità di un DVD game molto particolare che sarà la cui domanda sarà non di che film si tratta, ma di quale film di Clint Eastwood si tratta. Quindi, se dovete rispolverare anche i vostri archivi, dizionari del cinema, teneteli a portata, perché sentiremo durante la trasmissione tre tracce di tre diversi film di Clint Eastwood per giocare insieme e vincere appunto questi film. Allora, con ordine, primo film, quello che probabilmente troveremo fra quelli che escono questa settimana più in alto, insieme a Saw 6, sesto capitolo di una saga horror ormai infinita e di tutt'altro segno, un film per ragazzi e anche per famiglie, si intitola Tata Matilda e il grande botto, lo ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Ci sono fiabe che narrano di una orrenda creatura che appare dal buio per proferire 6 terrificanti parole. So che siete stati molto cattivi. Tata Matilda è stata ben informata. I tre fratellini Green e i due cuginetti arrivati da Londra non rendono certo la vita facile alla povera signora Green, Maggie Gyllenhaal, rimasta sola a mandare avanti la fattoria di famiglia. Il marito è al fronte e non manda notizie da mesi. C'è poi un cognato scapestrato, Ray Sifans, pieno di debiti di gioco. Vi devo una fattoria! O ci dai la fattoria? O i tuoi reni! Non voglio vendere! Isabel, mi servono i soldi! Come facciamo? Così perdiamo la fattoria! Tata Matilda, abbiamo bisogno di te! Tutti al riparo, prego. Dunque la tata interviene per salvare la fattoria e soprattutto per mettere pace fra i bambini con metodi che non si possono dire ortodossi, ma che funzionano magicamente. In assenza di letti per gli ospiti, Norman dividerà il suo con Cyril. Piuttosto con una capra. E io piuttosto con un elefante. Capisco. Spostati, ho uno zoccolo nell'orecchio. Tata Matilda e il grande botto è il secondo film tratto dai libri della scrittrice britannica Christiana Brand e cinematograficamente si inserisce nella strada aperta da Mary Poppins, solo che Matilda è un po' più ruvida nei modi e certamente più brutta, ma man mano che il suo lavoro procede diventa bella, perfetta nel momento del finale, ovviamente lieto. Un film piacevole ed educativo, buone maniere e buoni sentimenti. Questo insegna la Tata, interpretata come nella pellicola precedente da Emma Thompson, che è anche fra i produttori e gli sceneggiatori. Insegnamenti che arrivano attraverso la magia, dunque effetti speciali che coinvolgono in particolare gli animali della fattoria, con i maiali aviatori ed emuli di Esther Williams. Volano! Non è possibile! Oh! Intelligenti i maiali! Usalo bene! Questa è bella! Sì, è così! Siamo visti! Era come magia! Humor British, con ottimi personaggi di contorno, fra cui la svampita signora Doherty, Maggie Smith e Ralph Fiennes in divisa. Fantasia e nessuna volgarità. Forse un po' meno solido rispetto al primo film, è comunque molto gradevole per grandi e soprattutto bambini. Sì, mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto di più quell'altro. Sì, è bellissimo. Ti piacerebbe avere una tata come quella che c'era nel film? Sì, per la magia. Cosa le faresti fare? Tutte le magie. I maiali che volavano. E la nostra Chiara Pizzimenti ha raccolto, avete sentito, anche il parere di alcuni bambini fuori da una sala. Insomma, Tata Matilda e il grande botto, un film che si offre anche a parecchie letture, senza andare troppo sul serioso, ma insomma sicuramente anche di spessore dall'ambientazione, come abbiamo detto, durante la seconda guerra mondiale, ha un clima insomma che pervade tutto il film di grande magia. Dopo Tata Matilda andiamo ad altri temi, ad altri film, e cominciamo con il chiamare in causa il nostro Boris Sollazzo, che è già in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco. Benvenuto qui alla Rosa Purpure, perché abbiamo un paio di film da mettere sulla graticola e poi vediamo come ne escono chiaramente in questa puntata. Beh, il cinema italiano indipendente negli ultimi tempi, Boris, ha ritrovato un po' il sapore del road movie. È stato il caso di Basilicata Coast to Coast, che è forse, anche se in chiave di commedia, il film più sorprendente della stagione italiana, anche per i risultati che ha avuto al botteghino rispetto a quelle che potevano essere le aspettative, e mi pare che un po' di viaggio verso una terra del sud ancora una volta ci sia anche in questo film che si intitola 18 anni dopo, che arriva nelle sale in questo fine settimana, di cui io, prima di chiederti una valutazione, vorrei ascoltare una quarantina, cinquantina di secondi di questa clip. Sentiamo. Siccome oggi crema non va, volevo sapere se nei ceneri ci rimane pure il legno da bara. Ma come ve l'ha immaginata la cremazione? Che fa? E falò. Ti ricordi, andavamo dallo stesso logopedista, che devo da questo. Ma che è il testamento? L'hai chiamato? Non lo so nemmeno se lo riconosco. È venuto anche tuo fratello. Come si chiama il paese dove dovete portare le ceneri? Che cos'è? Puoi darmi un passaggio, per favore? Ma se non hanno preso l'urna, dove sono andati questi? 32 ore deviato. Non te ne andare. Valigetta, cazzo, c'era tutto là dentro. C'era il computer, il passaporto, i documenti. Il computer, se sono fregati papà. E questo era appunto il trailer di 18 anni dopo. Dicevamo, Boris, un cinema italiano che fa incontrare i suoi protagonisti lungo il percorso di un viaggio che molto spesso è anche un viaggio dentro se stessi. È così anche stavolta? Assolutamente sì, come tu dicevi, appunto, non era Basilicata, si fermano in Calabria. Edoardo Leo è regista, il co-sceneggiatore insieme a Marco Bonini, a sua volta co-protagonista, e appunto devono portare, come in Simon Konianski, le ceneri del padre sulla tomba della donna amata. Non si parlano da 18 anni, cioè dalla morte della madre, morte abbastanza traumatica, che nasconde vari segreti, e appunto, come dici tu, devono conoscere se stessi oltre che conoscere il proprio paese in questo road movie. E la dimostrazione è che c'è un altro road movie tutto interiore, quello tra Sabrina Impacciatore e Gabriele Ferzetti, che ripercorrono quello stesso passato seduti invece nella cucina e nel salotto della loro casa della periferia romana. Una doppia coppia con Jolly, appunto, Eugenia Costantini, un film delizioso, molto bello, uno dei film italiani a mio parere più belli che abbiamo visto in questa stagione, in questo 2010. Speriamo che riesca a vincere la sua personale battaglia contro i mondiali di calcio, perché la distribuzione purtroppo ha fatto questa scelta, o anche per fortuna, forse potrebbe essere un'idea intelligente quella di andare a distribuire un film lì dove altri non hanno il coraggio. Certo, e tra l'altro ci sono anche, lo ricordiamo, quasi una settimana, 6-7 giorni di permanenza al cinema prima che il pallone cominci a rotolare, quindi insomma ecco perché anche questa settimana c'è un affastellamento di una decina di film grandi e piccoli, più piccoli che grandi, nelle sale. Questo per esempio esce in 27 cinema in tutta Italia. È anche un film, Boris, che denota un altro tratto, diciamo così, di modernità sul quale il cinema italiano non sempre arriva per primo, ed è quello di esorcizzare, parlare, divertirsi anche con il tema della morte. Non è la prima volta recentemente nel cinema italiano, ma non è neanche così normale vedere nei nostri film un taglio di questo tipo, cioè non drammatico, rispetto a questo tema. C'è niente da fare, il nostro paese, anche perché probabilmente è un paese cattolico, un paese che ha sempre difficoltà a parlare della morte in maniera leggera, siamo molto più abituati alla comicità ebraica, citavamo Misha Wold non a caso. In questo caso invece c'è una grande leggerezza, credo perché ci sono due attori che hanno voluto scrivere e dirigersi un loro film, hanno pensato a se stessi, hanno pensato a quanto sarebbe stato bello recitarlo, e hanno pensato che non volevano una storia che coinvolgesse grandi temi, ma volevano una storia vera e propria, e ovviamente ci deve essere anche una parte di melodramma. Non voglio esagerare, ma con le debite proporzioni è un bel ritorno della commedia all'italiana. E allora, 18 anni dopo, nelle sale italiane, Boris, rimani con noi perché fra poco parliamo di un film di cui si è parlato molto ben prima che arrivasse nelle sale, ovvero La Papessa, ma prima dobbiamo aprire la prima finestra sul nostro originale DVD game di oggi. Come ho detto in apertura di trasmissione, si gioca, questo sappiatelo già, con Clint Eastwood, per onorarne gli 80 anni e i grandi capolavori che ci ha regalato. E allora cominciamo con l'ascoltare una traccia abbastanza sostanziosa di un film. La domanda è chiara: di quale film di Clint Eastwood si tratta? Titolo preciso, mi raccomando, per provare a vincere il DVD o il Blu-ray di questo film, al nostro indirizzo lavrosapurpurea@radio24.it. Ascoltiamo. Grazie. Buongiorno, ispettore. Ciao. Il solito. Il solito pranzo o la solita cena? Perché? Qui c'è una differenza? Non molta. Ehi, Jeffy. Quella Ford Chiara è sempre parcheggiata davanti alla banca. Ford Chiara? Sì, sta ferma. Motore acceso? Non lo so. Come faccio a saperlo? Dal fumo che esce dal tubo di scarico. Oh, è incredibile. Sembra una vaporiera. E questo era appunto il primo contributo. Di quale film di Clint Eastwood si tratta? La Rosa Purpurea @radio24.it. Non chiedo a Boris Sollazzo se l'ha già capito, perché non dobbiamo svelare nulla, quindi andiamo avanti. Diciamo che durante la trasmissione vi faremo giocare con tre film di tre epoche diverse di Clint Eastwood, quindi state attenti perché ci saranno altre possibilità e altri film. Dicevamo, Boris, La Papessa, un film che sicuramente ha delle premesse molto interessanti. Ricordiamola questa figura di Giovanna la Papessa, no? Siamo nel tardo 800, quello del primo millennio, l'800 proprio con l'otto davanti, si dice, si narra, mito, leggenda, realtà, chi lo sa, il tutto si perde nei rivoli della storia, che una donna travestita da uomo abbia retto il soglio pontificio per quasi un anno e mezzo. Su questo il cinema aveva già lavorato in passato, ci torna Sonke Wortmann con un film appunto che ha fatto molto discutere, ma di cui non tutti sono grandi estimatori. Io comincerei con il sentire una piccola clip che ci regala un po' il sapore di questa Giovanna da bambina e già i prodromi, insomma, della sua voglia di emergere in un mondo totalmente al maschile. Continua a ripetere, Giovanni. Tra poco nostro padre tornerà. Non ci riesco. Che devi dire? Il salmo Confitebor. Confitebor tibi domine in toto corde meo narrabo omnia mirabilia tua. Come hai fatto? Vi ho sentiti. Voglio imparare anch'io a leggere e a scrivere. Insegnami. Allora Boris, questo era proprio un inizio, avete sentito, si parlava anche di un Giovanni, perché effettivamente in famiglia c'era anche un Giovanni che poi morirà e di cui Giovanna prenderà un po' le mentite spoglie. Allora, breve storia di Giovanna la papessa in questo film, solo un pretesto o c'è davvero qualcosa da riscoprire, da scavare, da conoscere dentro questa trama? Allora, direi che è un pretesto sacro, perdonami il gioco di parole, in questo senso, film molto intenso e molto forte per tutta la prima metà, hai fatto bene a mettere questa clip perché è la parte più forte del film, la parte più femminista, in un periodo di oscurantismo la Chiesa vive una situazione di grande corruzione, in più ha le caratteristiche che ha tuttora di grande maschilismo anche violento, e Giovanna è colta, è più intelligente del fratello, ha un padre che picchia la madre, picchia lei, nonostante questo emerge tutta la sua vitalità, tutta la sua forza, tutto il suo intelletto, tutta la sua voglia di combattere, fino ad arrivare appunto al soglio pontificio sotto mentite spoglie. Che sia un testo apocrifo che ce lo dice, che sia un'immagine che hanno voluto raccontare per raccontare appunto questo pretesto, è comunque una storia molto forte. La sfruttano purtroppo però nel momento in cui il film fa vestire le sacre vestigia alla pur bravissima attrice, perde tutta la sua forza, tutta la sua intensità, diventa un melodramma pseudo-religioso e a mio parere non riesce a dare l'ultima stoccata e quindi il film rimane sufficiente, rimane a mio parere incompleto, non riesce a dare tutto. È un film comunque interessante perché si racconta qualcosa che è vero, che era già stato al cinema, ma forse non con questa chiarezza, con questa forza, anche con questa crudezza. Tra l'altro cast importante, Joanna Vokalek, che abbiamo visto nella banda Mother-Meinhof, è appunto la protagonista adulta nei panni di Giovanna, e poi John Goodman, Ian Glen, ci sono nomi importanti. Film forse un po' troppo lungo, però andiamo a sentire un altro momento, anche di quelli importanti, nel quale, come ha detto Boris, si svela un po' questa situazione nella quale la donna non poteva praticamente fare nulla, non poteva apprendere, non poteva esercitare professioni, non poteva vivere in qualche senso. E c'è un passaggio appunto nel quale già da giovane, prima ancora di arrivare appunto a travestirsi, a diventare qualcos'altro, Giovanna difende con forza la posizione femminile. Sentiamo. È stato San Paolo stesso ad asserire questa verità, e cioè che le donne sono inferiori, come si evince dall'ordine gerarchico della creazione e dalla grande forza di volontà degli uomini. Cos'hai da replicare al maestro? Come può la donna essere inferiore all'uomo nella creazione? Lei fu creata da una costola di Adamo, ma Adamo fu creato dall'argilla. Eva quindi ha la medesima origine. In quanto a forza di volontà, la donna può essere considerata superiore all'uomo. Eva mangiò la mela per amore della conoscenza e dell'erudizione. Adamo la mangiò soltanto perché fu Eva a chiederglielo. E avete sentito, questa appunto la conclusione abbastanza arguta. Boris, dicevamo, il cinema c'era già passato dalle parti di Joanna Anglicus, fu Lee Vullman addirittura a coprirne i panni in un film di Michael Anderson, però volevo chiederti questo: recentemente, non so se è un caso di distribuzione, ma due film, entrambi non totalmente riusciti, questo e l'altro è Agorà di Alejandro Amenábar, comunque con una firma importante in regia, stanno tirando, proprio pescando nel passato remoto e quello anche meno conosciuto, per tirare fuori figure femminili che così fossero un po' dei prototipi di femminismo. Secondo te perché? Perché si va a pescare così lontano nel tempo? Perché mai come in questo periodo la Chiesa mette in discussione la donna come soggetto pensante, la donna come proprietaria del proprio corpo. Non dico nulla di polemico se noto come l'attuale gerarchia ecclesiastica sia molto dura nei confronti della donna, perché è il campo di battaglia la donna su cui si sta giocando l'identità della Chiesa in questo momento, identità della Chiesa messa in pericolo anche da tutta una serie di situazioni politiche e religiose, non ultimo il terrorismo, che costringono probabilmente ad arretrare su questa su questo piano. Dall'altra parte, ovviamente, mai come in questo momento la donna è stata forte, mai come in questo momento la donna ha giustamente combattuto per i suoi diritti e quindi la Chiesa deve fare una scelta, e questo Papa, probabilmente quest'ultimo Papa, risponde con grandissima forza, come aveva fatto anche Giovanni Paolo II, e credo che questo sia una reazione, cercare nella storia, come spesso accade, l'attualità. E comunque Rachel Weisz e Johanna Okalek rappresentano figure molto attuali, sembrano donne molto moderne, allora molto particolari ma adesso molto moderne. Bene, allora questa è un po' la valutazione anche su questo La Papessa, il film invece che ha una distribuzione notevole, quasi 200 copie, quindi insomma uno dei colossal. Mi è capitato proprio di vederlo nei multiplex, per esempio, quindi c'è anche un'invasione, perché poi sono film anche di grande portata spettacolare, qui i produttori sono gli stessi del Nome della Rosa, quindi c'è un impianto scenico sicuramente suggestivo, per cui un film che si cerca anche di sdoganare in un circuito più di massa. Grazie a Boris Sollazzo per essere stato con noi e averci raccontato questi due film. Grazie a te, Franco. Terza parte del programma, occhiatina alla classifica. Sex and the City 2, lo avevamo detto settimana scorsa stroncandolo, sarebbe stato primo in classifica, ma infatti lo è senza sfondare, perché in realtà porta a casa 1,5 milioni, poco più, durante il primo weekend di programmazione. Secondo Prince of Persia, terzo Robin Hood, vedete che tutto colossale, tutta roba già nelle sale da qualche settimana. Resiste bene al quarto posto Final Destination in 3D, guadagna qualche posizione La Nostra Vita, soprattutto aumenta i suoi incassi, il bel film di Daniele Lucchetti che ci ha rappresentato a Cannes e che chiaramente è un film più da settimana che soffre un po' dei primi caldi, insomma, dell'abbandono dei cinema di città, soprattutto durante il fine settimana. Questo per dare un'occhiata a una classifica italiana che è più o meno la stessa, almeno ci sono più o meno gli stessi film, quelli che sono già usciti, di quella americana. Ormai la globalizzazione ci ha portato al fatto che il calendario è un po' lo stesso dappertutto. Non pensiamo che i film di questa settimana possano sconvolgere questa classifica, potremmo trovare abbastanza in alto Tata Matilda, come dicevamo, ma certo meriterebbe molto, moltissimo Il Segreto dei Suoi Occhi, film che arriva nei cinema italiani proprio in questo weekend, che ha vinto l'Oscar quest'anno come miglior film straniero, film che vogliamo consigliare anche un po' qui alla Rosa Purpurea, a 61 sale a disposizione per vederlo. La storia di Benjamin Esposito, un assistente del Tribunale di Buenos Aires ormai in pensione, il tempo a disposizione gli fa nascere l'idea di scrivere un romanzo, ma in realtà è un'idea che affonda le radici in tempi lontani, un modo per Benjamin di mettere nero su bianco un vecchio caso irrisolto di quando lavorava in tribunale e dargli finalmente una conclusione magari immaginaria ma sicuramente giusta. 25 anni prima, infatti, quando ancora Esposito era l'assistente dell'affascinante Irene, segretaria del pubblico ministero, aveva indagato sul caso di una ragazza di 23 anni stuprata e uccisa e aveva giurato al giovane marito che avrebbe trovato l'assassino. Ogni giorno il giovane vedovo stava seduto su una panchina della stazione di Buenos Aires, convinto che avrebbe visto passare e riconosciuto il killer della moglie. E un giorno Benjamin quel killer lo trovò, ma la giustizia, per così dire, se lo lasciò sfuggire. Molte erano le cose cambiate in quel tempo, in un breve lasso di tempo in Argentina. Negli anni 70 i militari avevano preso il sopravvento e svuotato le carceri da pericolosi criminali che avrebbero fatto da manovalanza violenta per la dittatura. Così un giorno Benjamin e Irene si ritrovarono davanti quel killer stupratore, questa volta impotenti di fronte a tanta protervia. Questa è una delle storie, uno dei rivoli che racconta Il Segreto dei Suoi Occhi, ma ce ne sono anche altre, come quella dell'amore mai esplicitato fra Irene e Benjamin, che recupereranno 25 anni dopo, nel presente storico del film, o quella dell'amicizia sincera, spinta fino al sacrificio della vita, fra Benjamin e il suo collega Pablo Sandoval. Questo l'ultimo incontro fra i due. Te l'ho detto mille volte, Benjamin. Io volevo fargli il culo, citarli, ma tu mi hai lasciato a terra. Ma è stato 6 mesi fa. È un anno che il telefono non funziona e quei bastardi non me l'hanno mai riparato. Che cazzo, non ti puoi fermare a dormire qui. Lascia questo, non toccare niente. Se ogni tanto mi chiamassi, lo sapresti che non funziona. Lascia stare, ma che stai cercando? Perché tocchi? Io volevo denunciarli, ma tu... Guardami. Tu resta qua e non toccare niente. Non fare niente. Aspettami, torno subito. Spegni la luce. Sì. Vedrai che lo troveremo, quel figlio di puttana. Vedrai che lo troveremo. Le ultime parole fra questi due amici. Campanella gira con stile asciutto improvvisi slanci lirici. Questo film sulla memoria, sull'ingiustizia, sui sentimenti e su noi, spesso incapaci di cogliere i sentieri che la vita ci apre, salvo trovarci poi in un vicolo cieco. Benjamin avrebbe dovuto amare Irene quando era il momento, avrebbe dovuto neutralizzare lo stupratore prima che la storia con la S maiuscola lo rimettesse in libertà, proteggere meglio la vita dell'amico Sandoval. Ma, sembra dire Campanella, siamo fatti apposta per non essere mai in tempo agli appuntamenti cardine della nostra vita, che però ci regala sempre una seconda occasione, o almeno spesso. Ci sono alcune scene memorabili in questo film, su tutte voglio segnalare, per chi andrà a vederlo, l'inseguimento nello stadio di Avellaneda durante una partita di calcio del Racing in mezzo a una folla sterminata e ululante, una scena che è veramente figlia della lezione di Alfred Hitchcock. Ma c'è anche tanta ironia nei dialoghi, nelle situazioni, negli sguardi, tutto fuorché la retorica. Il segreto dei suoi occhi è valso, come abbiamo detto, a Campanella l'Oscar per il miglior film straniero lo scorso febbraio a Hollywood e il conseguente inserimento nell'albo dei maestri di un cinema sempre intenso e originale come quello argentino. Il regista spiega così la scelta dei due attori principali. Quando leo la novella, quando leí la novella, quando ho letto il romanzo, mi sono subito immaginato Riccardo nei panni di Esposito. E anche per il ruolo di Irene, che è molto più piccolo nel romanzo e che partecipa molto meno. Sebbene Irene sia la figura della quale Esposito è stato innamorato per tutti questi anni, non è presente all'interrogatorio, non partecipa molto agli eventi. Ma per questo ruolo ho sempre immaginato Soledad. Soledad Villamil ha un qualcosa di nobile, per così dire, caratteristica perfetta per il suo personaggio. Che incajava perfetto nel personaggio. E questo era Juan José Campanella, regista di Il segreto dei suoi occhi, probabilmente il più bel film fra quelli che escono nelle sale in questo fine settimana. Gioco con Clint Eastwood. Andiamo a sentire un altro frammento di un altro capolavoro del grande Clint. Fui riconoscente per il silenzio quella sera. Mi rendevo conto che l'amore non obbedisce alle nostre aspettative. È mistero, puro e semplice. Quello che io e Robert avevamo avuto non sarebbe potuto continuare se fossimo rimasti insieme. Beh, forse qui c'è qualche appiglio in più per indovinare di quale film di Clint Eastwood si tratta. La Rosa Purpurea @radio24.it se volete provare a vincere il Blu-ray o il DVD di questo film. E andiamo avanti con la nostra trasmissione. Abbiamo qualche minuto per parlare di un festival che è giunto alla sua 12ª edizione, che si è aperto in questo fine settimana, che andrà avanti fino all'11 giugno. Stiamo parlando del Napoli Film Festival ed è in collegamento con noi il direttore Mario Violini, che saluto. Buonasera Mario. Salve. Ben trovato qui alla Rosa Purpurea. Grazie. Allora, dicevamo, 12ª edizione, cominciano a essere tanti gli anni, comincia a essere un festival che in questo periodo della stagione è un po' un classico. Io volevo soffermarmi un attimo su un paio di ospiti e un paio di omaggi, oltre chiaramente a tutto quello che un festival può offrire, concorso, cortometraggi, nuovo cinema, eccetera. Però ci sono due grandi napoletani che vengono così, diciamo, omaggiati in questa edizione. Parliamo dei due più grandi, forse, nel campo dei comici e non solo, Totò da una parte, Troisi dall'altra. È un caso, Mario, o ci sono ricorrenze che lo richiedevano? No, diciamo non c'è nessuna ricorrenza specifica, però ci faceva particolarmente piacere riuscire in qualche modo a ricordarli entrambi per quest'anno, e siamo riusciti a farlo con due spettacoli molto originali e particolari. Il primo, Totò Movie, che passa questa sera con Rosaria De Cicco e Fabio Canessa, che hanno lavorato insieme nella trasmissione di Arbore ultima in Rai, e in cui praticamente entrambi racconteranno un po' di aneddoti, riprenderanno delle gag che si vedranno sul grande schermo del Principe della Risata, che sicuramente, insomma, faranno piacere a tutto il pubblico napoletano. Invece lunedì sera ci sarà Anna Pavignano, compagna nella vita e sul lavoro di Massimo Troisi, che lo ricorderà sulla scia del romanzo che lei ha scritto, Da domani mi alzo tardi, in cui immagina che Troisi, anziché scomparire purtroppo improvvisamente subito dopo la fine delle riprese del Postino, in realtà aveva solo preso una, diciamo così, una pausa di riflessione, si era allontanato per un po' di anni e poi era ritornato nuovamente al suo mondo, ai suoi affetti e tutti quanti, scoprendo che poi in realtà praticamente si trovava un po' a disagio, e quindi come riprendere un po' la relazione con tutti quelli che prima lo avevano circondato. Beh, diciamo che questo titolo Da domani mi alzo tardi è molto troisiano, è proprio è perfetto. In realtà praticamente non è perché in realtà il giorno precedente si alzava presto, ma perché si alzava tardissimo e quindi era il buon era un auspicio per il futuro. Senti Mario, invece dicevamo anche due straordinari ospiti, non sono gli unici ovviamente, ricordiamo che su internet chi volesse approfondire il programma del Napoli Film Festival. Solo Riccardo Scamarcio, Isabella Ferrari, Pupi Avati. Ma Jonathan Demme e Ennio Morricone, insomma, sono due pezzi da 90. Due che prevedevo volevi citare tu. Soprattutto devo dire Ennio Morricone, ovviamente maestro sul quale ci alziamo in piedi, e però ce lo abbiamo a disposizione spesso. Jonathan Demme è davvero una carta sorpresa. Come mai questa scelta? Ricordiamo il suo ultimo film straordinario, Rachel Getting Married, ma lui è sempre al lavoro fra teatro, cinema, documentari, un'anima inquieta. No, ma tra l'altro praticamente oltre il film che hai citato programmeremo anche il film The Agronomist, che è il documentario che lui ha dedicato ad Haiti, a cui è molto legato e che è veramente una piccola chicca perché a Napoli non si è mai visto. E in realtà era un autore che noi stavamo inseguendo da un po' di anni, dopo aver avuto ospiti come Cate Blanchett, i fratelli Coen, Harvey Keitel e tanti altri, in realtà ci tenevamo moltissimo ad avere anche lui qui a Napoli e finalmente siamo riusciti nella nostra impresa. Beh, allora grazie a Mario Violini, ricordo Napoli Film Festival fino all'11 giugno. Ciao Mario. Ciao, grazie. Quarta parte dedicata come sempre al cinema da vedere o rivedere in casa, lo facciamo come sempre cominciando con gli amici del settimanale Film TV, quando all'inizio della settimana dalla redazione di Film TV ci hanno scritto quali potevano essere le proposte per il film da segnalare in chiaro in televisione durante la settimana prossima. Io ho visto il titolo Fahrenheit 451, ho detto ai nostri amici c'è sempre un buon motivo per vedere un film di Truffaut, quindi anche visto, rivisto, registrato mille volte è sempre una grande esperienza. E allora ce lo facciamo raccontare da Andrea Fornasiero. Ciao Andrea. Ciao Franco e un saluto anche agli ascoltatori di Radio 24. Questa settimana segnaliamo un film che va in onda nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 giugno su Rete 4 alle 2:15. Fahrenheit 451, la temperatura a cui la carta prende fuoco, che ispirò il titolo del romanzo di Ray Bradbury del 1951. Da quel punto Truffaut trasse un film nel 66. Si tratta del primo film a colori e per una major americana del regista francese. Il romanzo di Bradbury racconta un mondo distopico, per cui insomma il contrario di un'utopia, in cui i pompieri hanno il compito principale di bruciare i libri, perché la felicità è garantita in qualche modo dal dominio televisivo, la popolazione è contenta ma disinformata, i libri diventano inevitabilmente uno strumento di sovversione, pertanto vengono fatti sparire. Il nostro protagonista Montag scopre una passione per la letteratura, ovviamente illecita, e si ribella a tutto questo. Nel romanzo il finale era da un certo punto di vista apocalittico e allo stesso tempo proprio ottimistico, mentre nel film di Truffaut gli uomini, non è molto chiaro che futuro avranno gli uomini libro, il cui principale compito sarebbe ricordare, perché non sembra che la civiltà della televisione, per così dire, sia destinata a finire, quindi in un certo senso è comunque più pessimista. Il film rimase in realtà uno di quelli che meno soddisfecero il regista, lui non ne ha un ricordo particolarmente entusiasmante, nonostante riuscì a lavorare con Bernard Herrmann, il compositore fidato di Hitchcock. Però per lo spettatore, comunque anche per l'appassionato di fantascienza, rimane un'opera originale che riesce a trattare i temi profondi del romanzo senza ricorrere ad eccessive trovate spettacolari. Il tono è forse anche più cupo di quello del racconto di Bradbury. Per oggi è tutto, ci risentiamo la settimana prossima. E allora grazie al nostro amico Andrea Fornasiero della settimanale Film TV, ricordo l'appuntamento Fahrenheit 451 di François Truffaut nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 giugno, puntare i registratori alle 2:15 su Rete 4. Terza traccia, terzo film di Clint Eastwood di questo specialissimo DVD game di questa settimana. Daremo la caccia fin giù nel Texas, perciò non spendetene troppi di quattrini. Ci divideremo in quattro squadre e batteremo tutte le fattorie e le piste coprendo tutta la contea. Incontreremo di sicuro qualcuno che ha visto. Chi è il padrone di questo cesso? E beh, insomma, la voce inconfondibile. Ricordo la rosa purpurea @radio24.it. Di che film si tratta, per provare a vincere un capolavoro di Clint Eastwood. Soluzioni la prossima settimana, con questa straordinaria uscita della Warner per i titoli, più di una trentina di titoli del grande Clint in occasione dei suoi 80 anni. Nel frattempo però facciamo il consueto salto indietro di 7 giorni e sentiamo una delle tracce del film misterioso della settimana scorsa. Avevo usato i miei poteri per il male, come se avessi gettato una maledizione su tutti noi. È come quella poesia in cui uno uccide un gabbiano e glielo fanno mettere intorno al collo. Ogni notte sognavo quella capra, la sua bocca che si apriva e chiudeva senza emettere un suono. Il silenzio delle innocenti. Beh, diciamo che la presenza della capra ha aiutato, però davvero partecipazione massiccia a un DVD game di un film che è andato bene ma non ha spopolato nelle sale italiane quando è uscito. Era ovviamente L'uomo che fissava le capre. C'è un ascoltatore che ci ha scritto: L'uomo che sussurrava le capre. Ha mischiato L'uomo che sussurrava i cavalli con L'uomo che fissava le capre, però insomma è tutto concesso. Film con George Clooney in un'atmosfera coeniana, pur senza essere firmato dai fratelli Coen. Vincono Luca Perucoco, penso che sia giusta la sua pronuncia, Luca Perucoco di Acilia, vicino Roma, e Pier Attilio Stea di Cuneo, per loro il Blu-ray dell'Uomo che fissava le capre, che il nostro Claudio Pofi, che saluto, ci racconta così. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, L'uomo che fissava le capre, distribuito da Medusa Film, è disponibile su DVD, ma soprattutto Blu-ray. Le immagini del Blu-ray alta definizione sono nettamente superiori al DVD, comunque ottimo, doppia traccia audio DTS ad alta risoluzione italiano-inglese. Consiglio sicuramente l'ascolto di entrambe per cogliere le diverse sfumature nel parlato, che qui sono veramente notevoli. Come extra, commento del regista, 4 minuti di scene tagliate e 2 making of. Adesso un omaggio che abbiamo voluto fare in chiave DVD, proprio per provare a riscoprirne i grandi capolavori, perché in settimana, come sicuramente tutti saprete, è venuto a mancare Dennis Hopper, da tempo malato, l'easy rider del cinema americano, se n'è andato, e chiaramente lo ricordiamo per tanti film, ma soprattutto per quello straordinario ruolo. Allora ascoltiamo questa clip. Una volta questo era proprio un gran bel paese e non riesco a capire quello che gli è successo. Che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da 2 soldi. Voglio dire, proprio di quelli da 2 soldi, capisci? Credono che si vada a scannarli o qualcosa. Hanno paura. Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate. Ma quando? Per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli. Ah, no. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà. E allora omaggio a Dennis Hopper. Sono una cinquantina i titoli non video delle oltre 200 opere tra cinema e TV a cui ha lavorato il grande attore. Segnaliamo tra i tanti Sfidalo che è il corral di John Sturges del 57 di Paramount su DVD, Waterworld da Universal anche in Blu-ray, naturalmente quello che abbiamo ascoltato, ovvero Easy Rider in Blu-ray da Sony Pictures Home Entertainment, da lui diretto e interpretato. Altro film da regista diventato cult nella seconda metà degli anni 80 è Colors, Colori di guerra, disponibile in DVD da Cecchi Gori, e naturalmente Apocalypse Now di Coppola del 79, per ora solo in DVD da Beam Distribuzione, mentre la versione rimontata Redux è della Disney. E allora un addio a Dennis Hopper. Mi piace la definizione che ne ha dato Assante su Repubblica, dicendo: se il rock è un modo di fare le cose, il modo in cui Dennis Hopper ha attraversato la storia del cinema è sicuramente stato assolutamente rock. 74 anni, l'addio a Dennis Hopper. Andiamo avanti con un'altra recensione, con un'altra segnalazione, un film da riscoprire, si intitola Voglio la testa di Alfredo Garcia. Dirò io come sono andate le cose alla polizia. No, bellezza. Tu invece mi porti a trovare Alfredo. È lui che ci farà guadagnare i soldi per andarcene di qui. Io non capisco come pensi di poter fare dei soldi con un uomo morto. Io non mi fiderei di quello che dice quella gente. Gli devo portare una prova. La sua testa. La sua testa? Sì, come prova. Ma è un peccato, Benny, sei pazzo! È un cadavere! Sta zitta! Ma tu vuoi profanare la sua tomba! Il miliardario messicano El Jefe vuole la testa dell'uomo che ha messo incinta la figlia e promette $1 milione. Si scatena così una violenta caccia all'uomo da parte di killer e organizzazioni mafiose, ma ad avere la meglio su tutti sarà niente meno che il pianista Benny, il quale, al posto di intascare la taglia, ucciderà il mandante prendendo una strada senza ritorno. Condannato all'epoca per la brutale violenza, il film nel tempo è stato rivalutato dagli appassionati e oggi considerata una delle opere più importanti del regista pelle rossa Sam Peckinpah, realizzato subito dopo Pat Garrett e Billy the Kid. Il DVD arriva da Koch Media, offre una visione più che dignitosa, con alcuni momenti in cui la pellicola mostra alcuni danni fisici. Formato immagine originale cinematografico, l'audio Dolby Digital monofonico italiano, ma c'è anche lo stereo inglese. Come extra è disponibile il trailer. Ecco, piccola rettifica, voglio la testa di Garcia nel titolo italiano, mentre nel titolo originale Bring Me the Head of Alfredo Garcia c'era nome e cognome. Grazie Claudio, appuntamento alla prossima settimana. A presto, un saluto. E allora noi chiudiamo qui la trasmissione, abbiamo finito la nostra cavalcata di un'ora nel cinema, sul grande schermo e in casa. Appuntamento a sabato prossimo alle 18, domenica prossima per chi ci ascolta in replica alle 15. Un saluto da Franco D'Assisi.